ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese. Una famigliola di tipo universale. L'arcivescovo. S'era oscurata, dicemmo, la porta già imbiancata dalla prima luna di Ocagna e il conte era appena sceso tutto pensieroso nella botola e aveva chiuso sopra di sé il coperchio quando passi e voci, con un che di animato ed imperioso, risuonarono a lui assai prossimi, dato che la cucina ne era il temporaneo scenario. Aleardo a questo punto avrebbe voluto tornare indietro, presentarsi, come qualsiasi uomo della sua casta avrebbe certamente fatto, e anch'egli qualche istante prima a quei sopraggiunti. Ma una insensibilità mai conosciuta avanti, una fredda tristezza ignota alla sua educazione e bontà, glielo impedirono. E come qualsiasi fanciullo, colpito da un'ingiustizia della cara madre, sosta svogliato in un angolo, egli, una volta raggiunto, attraverso la seconda botola, il passaggio segreto, non lo abbandonò per la propria stanza, ma rimase nell'armadio in attesa di ciò che poteva suonare o apparire laggiù. E intanto, non più apertamente di un palpito appena più forte dei normali del cuore, gli riaffiorava alla mente il già morto proposito di agire in qualche modo per il riscatto di Ocagna e dell'uno e dell'altro di quegli sventurati signori. E a partire sull'alba già più non pensava. Ed ecco, di lì a qualche attimo, la sua attesa venne ricompensata. La botola della cucina, visibilissima dall'armadio, si aperse e mentre un vero fiotto di luce rossa invadeva quel selvaggio sottofondo, alcune persone, le medesime senza alcun dubbio intraviste sulla spiaggia, cominciarono a scendere dalla scala a pioli, precedute da Felipe, che recava una torcia protetta da una campana di vermiglio vetro. Erano, vedi un po', lettore, come il segreto delle cose è spesso assai più modesto di quanto l'infantile immaginazione dell'universo intenderebbe, per non so quali fini, dimostrare, erano niente più che una compitissima e molto da bene famigliola del ceto medio mondiale, cioè americano. In quanto tutte le famigliole oggi sono americane e in quella l'origine Yankee era evidentissima. Erano un largo padre, una lunga madre e una risolutissima figlia sui 20-22 anni, dal viso magro, gli occhi neri, le gote abbronzate, in gaio contrasto con un abito da cocktail rosso e un nasino della più sottile e decisa grazia interventista di questo mondo. La fanciulla, chiaramente regina di cuori e fortune, avanzava però in quel tetro luogo con quel tanto di convenzionale allarme e un minimo di autentica attenzione atti a significare che il suo animo sportivo non era del tutto indifferente ai fascini dell'orrido e di una naturale, alla estrema indigenza, depravazione. In contrasto, più aperta e come smarrita, era la perplessità della madre, vero otre di luce, vestita di chiffon caramella e poi argento, oro e trine e piume varie. Luccicante dalla punta dei sandali color luna all'alato cappello rosa aurora, vera allegoria dell'estate con spine di grano e papaveri sconvolti da un invisibile vento. Dalle unghie argentate fino alle triplici borse rosa che sollevavano in alto, scoprendolo, l'orlo delle palpebre. E non era in minor forma, per quanto attenuata e come dominata da una vigile prudenza, il signor marito e padre, il mister di qualche farm, alle spalle di una metropoli occidentale, dove inizia la foresta. Egli, un intimidito e piccoletto signore di questo mondo, tutto tutto in seta cruda e oro, con in mano un suo bastoncino di bambù, sembrava ad ogni attimo esplorare l'avvelenata aria del luogo, cercandovi il punto giusto a ciò che la marcia delle sue donne non fosse intralciata di sorpresa da qualche ostacolo. Precauzione del tutto inutile, in quanto mai, come in quel momento, la casa della iguana parve al pensieroso lombardo più inanimata e prona, pari a una tomba da cui la creatura, per disposizione della soprannaturale polizia, fosse stata permanentemente allontanata. Era niente di più la dimora della servetta, in quell'attimo, che un luogo per riporvi vino in alte botti, e botti senza vino, casse ricolme delle mercanzie più diverse, e l'angolo dove la fanciulla bestia aveva seppellito il suo tesoro di pietrine con le sue manucce verdi, apparve così scoperto e offerto al lume della torcia che il conte, per quanto ciò non avesse senso, tremò, aspettandosi che fosse veduto. Cosa poco probabile, se dovevasi tener conto di una successiva apparizione di visitatori, i quali, seguiti a pochi passi da Ippolito e lo stranito marchese, riempirono presto il locale di una deliziosa vivacità. Don Fidenzio Aureliano Bosio, di chiara origine lombarda, e attualmente arcivescovo di Merida, a 700 chilometri da Caracas, non era ignoto al mite Aleardo, anzi, non gli era ignoto affatto, se, nel ravvisarlo, sorrise. Era niente meno quell'uomo soddisfatto e cortese, infinitamente roseo, rosso, verde e dorato a causa di una meravigliosa stola che gli ammantava alle spalle, il pupillo di quella stessa ava materna nella cui casa di Bellagio era trascorsa l'infanzia del conte. Ed essa, l'ava, scoperto prima l'incanto della sua voce, quindi la di lui povertà, Fidenzio viveva con una dozzina di fratelli in una cascina e alcun avvenire gli si prospettava, lo aveva, con la tipica violenza che i lombardi mettono nelle opere di bene, adottato, destinando alle spese dei suoi studi in seminario una parte non lieve della voce carità. Aleardo aveva incontrato più volte così il promettente studente teologo di domani nel giardino e al piano terreno della villa, e sempre, in quelle occasioni, liquori dorati e biscotti erano usciti dalle massicce credenze e dalle fiorite scatole di porcellana. Guardandolo, l'ava pareva ritrovare quella pace che un ideale romantico, perseguito dallo sbocciare della gioventù, sembrava aver messo in pericolo. Don Fidenzio, per quanto un dotto scrupolo lo rendesse cauto, le aveva già assicurato, nel più formale dei modi, la salvezza finale dell'anima. Questa garanzia aveva permesso alla gentil donna, ancora assai bella malgrado l'età verde fosse passata, di concedersi qualche altra generosa follia, dopodiché gli ufficiali di Dio l'avevano prelevata. In quell'ultima occasione, essendo già sui 20 anni, Aleardo aveva rivisto passeggiare nel giardino prospiciente il lago il suo quasi fratello, che ormai sui 25 e da poco consacrato al Signore era in attesa di partire per le Baleari. Da quel giorno erano passate 10 estati. Nessuna notizia era giunta più, fino alla sorpresa altamente soave di questa sera. Ora, commosso per quell'incontro che prometteva una solenne e benedetta schiarita del mistero di Ocagna, il conte, con un animo tutto mutato e obbligato anzi a frenare la gioia che avrebbe voluto spingerlo a subito rivelarsi e abbracciare Fidenzio, si disponeva a lasciare l'armadio, ponendo fine a quella curiosa serata e rimandando a domani il più caro dei rivelamenti. Se non che lo stupì quanto il prelato, seguito dal giovane chierico e da Felipe, si apprestava a fare. Niente meno che il giro dello scantinato, dove, mentre Felipe rischiarava con la sua torcia gli anfratti, il chierico faceva oscillare il suo turibolo e il tutto tutto. Le pallide mani del quasi fratello benedivano, intanto che la bellissima voce angelica intonava, energica e soave insieme, un Libera nos Domine della più accorata fra le intenzioni. Si udirono a questa frase di un rituale antico come l'abisso alcuni suoni, ed erano precisamente una risatina della domestica negra ed oltremodo graziosa, che veniva con una manina sulla bocca dietro il chierico e pareva preoccupata di non riuscire più a dominare la sua ilarità, un shh di Ippolito al cui severo sguardo nulla sfuggiva, e un singhiozzo scappato dal sublime petto della dama in rosa. In quanto alla fanciulla, una piega appena sdegnosa delle belle labbra e una incredulità seccata, questo distingueva in quel momento il suo risoluto visino, mentre si vedeva lo sguardo nero correre al piumato e impietrito signore del luogo, cioè Don Ilario Mendes Segovia, con una cordialità dalla quale il rimprovero non era eliminato. Ma il capo della famigliola USA, egli, come se di tale messa in scena andasse mentre si svolgeva, registrando su una invisibile calcolatrice la cifra fino all'ultimo cent che era gli costata, mostrava un cruccio di natura assai più ragionatizia che spirituale, scotendo durante quei libera dubbiosamente il capo. Giunto il gruppetto, dopo aver percorso l'intero perimetro del locale, nel suo fondo basso, dove si scorgeva il confuso giaciglio della creatura, si soffermò come turbato e infittì il rumore quasi di uccello acquatico che faceva il singhiozzo della genitrice, fischiò di nuovo la risatina della domestica, il shh di Ippolito, e serena, alata, dopo una pausa che al conte parve di dubbio, si elevò l'invocazione di prima, quel Libera nos Domine del prelato, mentre l'incensiere vomitava un'autentica nuvola dispensatrice di perdono e carica tuttavia di non so che orientale torbidezza. Il terrore del male. Nuove ipotesi. Se l'animo del conte non era mai stato così oppresso, di una oppressione, per fortuna, più vicina a uno stupore di fanciullo che a una vera inquietudine, come voleva del resto la sua fiduciosa natura, quella stessa oppressione si sarebbe potuta paragonare a un radioso sorriso di fronte alle emozioni che uno sguardo magico al di là dello scantinato, della botola, della cucina e della porta aperta sul sentiero degli ulivi gli avrebbe certo provocato. Se ne stava venendo da quella parte, lemme lemme, e con quell'aria tra disattente e triste degli orfani che sembrano attraversare le strade della vita in un eterno interrogativo, niente meno che la tanto avversata Iguanuccia. Annoiatasi presto dopo la partenza del conte e dei suoi idioti giochini, e come se l'interrogatorio e la bontà severa del forestiero l'avessero richiamata alla sua dolorosa situazione, riportandola a preoccupazioni che la notte aveva forse blandito, di lì a poco, forzato l'usciolo della stia, zitta zitta come volevano i suoi piedi scalzi, si era avviata verso casa. Benché fosse una iguana e della specie più cupa, delle notti di luna provava una forte paura, che solo la più forte paura dei Guzman temperava, senza per questo distruggerla. Le avevano detto, quando da poco era viva, che vi erano mostri dovunque e bisognava guardarsene. Più tardi, allorché rotta ai lavori domestici, la sua personcina verdastra non riusciva per la stanchezza a tremare di nulla e avrebbe potuto dormire. Le lente insinuazioni della famiglia sull'esistenza fisica del male e sulla sua personificazione in un certo essere che non si nominava avevano gettato un vero e gelato terrore nella piccola mente e un sospetto che alle prime era stato insostenibile e ora tanto la incupiva da non poterlo nemmeno più affrontare. Essere lei stessa, la iguanuccia, il male, ciò che dicesi spirito delle tenebre perseguito da Dio. Questa, assieme a un altro dolore che fra non molto, lettore, verrà in luce, era la spina che stravolgeva gli occhi della menina, per il dolore che provocava essendosi fitta nella sua mente. E così, mentre di notte ora giocava nel pollaio, ora cercava di riguadagnare la sua tana, dove gli oggettini che abbiamo visto, tra cui il piattino coi semi abbrustoliti, in qualche modo la rassicuravano, non tanto la paura del silenzio, della notte lunare, la dominavano, quanto quella inaffrontabile paura di sé. Ove, invece di parlare a tanta distanza di acque e di giorni, per non dire di anni, di questo povero essere, ci fosse stato concesso di percorrere quella notte il suo stesso sentiero, raggiungerlo di sorpresa e tenerlo fermo un momento per le verdi spallucce, avremmo sentito il primo tremito irrigidirsi in una sorta di pietrea immobilità e infine quegli occhietti si sarebbero levati senza nient'altra luce che la fredda disperazione su di noi. Terribile è, certo, la sorte di coloro che Dio ha destinato a continui incontri con gli occhi fosforescenti del male. E non parliamo tanto dei cattolici, il cui male sta in definitiva unicamente nell'assenza dei piaceri, ma dei protestanti, per esempio, che vi credono e ora lo impiccano, ora gli tagliano il capo, ora lo mandano a bruciare con mille scintille su una modernissima sedia. Terribile è dunque il destino di chi è posto da Dio o dalla propria ambizione, questo non è ancora chiaro, in continua lotta con la perversità. Ma ha mai pensato, lettore, quale può essere lo strazio della perversità e malvagità medesima, impossibilitata per ragioni, diremo, matematiche, a lottare con sé, a fuggire da sé e che sempre, il giorno e la notte, deve sopportare l'orrore della propria disperata presenza, essendo questa presenza se medesima? No, certo, non vi hai pensato. Eppure, se questo ti parrà adesso il massimo dell'orrore sopportabile da quel fragile esserino, sappi che ti inganni, che c'è dell'altro, che il massimo dell'orrore è ancora possibile. Non vi è, infatti, orrore che, essendovi nati dentro e avendone per così dire bevuto il latte, non si trasformi col tempo in abitudine e rassegnata indifferenza, cioè a dire in una sorta di degradata felicità e tuttavia ancora felicità. Ma se colui che, dopo, fu riconosciuto come il male, non era all'origine considerato tale, ma tutt'altro, era baciato e accarezzato e gli si fissavano in volto allegri sguardi azzurri e tutto cantava intorno a lui un canto di amicizia e soavità, se colui improvvisamente seppe che vi era stato errore, seppe di essere non il bene, ma il male medesimo, la vergogna, la malvagità, e spinto in un corridoio di solitudine non vide in fondo al cammino che la forca. Sappi, lettore, che solo costui che dapprima non era considerato il male e dopo fu indicato come il male medesimo, solo costui sa cos'è il freddo mortale del male. Si dice che l'inferno sia calore, un calderone di pece e probabilmente milioni di gradi sopra lo zero. Ma in realtà il segno dell'inferno è nel meno, invece che nel più. È in un freddo, lettore, davvero assai orribile. Non solo vi è freddo, ma anche solitudine. Nessuno ti parla più e tu non riesci a parlare con alcuno. La tua bocca è murata. Questo è l'inferno. La creaturina intorno a cui si muove questa storia di tanto in tanto se ne dimenticava e per delle stupidaggini, pensa, lettore. Quando era sola e si stringeva tra le braccia una rossa gallina, se trovava una pietrina lucente, se gli ulivi cantavano o il sole di marzo scaldava la mormorante solitudine delle acque marine. Ma poi uno strazio, che era quello della sua presente condizione di castigo, legata al ricordo di quando non era così, la vinceva in una maniera così segreta, così sottile, come una tenaglia penetrata nell'interno del suo cervellino e intenta a staccarlo dal cranio. Si sentiva portare fuori di sé, dal suo patire, e allora veniva quella vocina fredda, quello sguardo duro e malato, assai strano in una bestiola, e veniva anche quel cupo ardore del conteggiare e seppellire i miseri valori con cui le fatiche sue erano ricompensate. Ma ora basta ragionare su cose tanto strazianti, lettore. La notte in Ocagna, da rossa, si è fatta azzurra, il mare è quieto. Una lieve brezza salata sale dalla spiaggia e la pelle rugosa della nostra iguanuccia rabbrividisce. Minuscola e solenne nella sua oscurità, la creaturina mutilata della speranza si avvia verso casa, o quella che per lei una volta fu casa. Crederesti che essa pensi chissà che? Disilluditi. In questo momento sta pensando solo che non ha ben contato le pietrine dell'ultima mesata. Dovevano essere 30 in attesa dell'aumento, ma all'impressione era troppo preoccupata nel pomeriggio quando signor Ippolito gliele contò in mano di averne ricevuto soltanto 29. Prenderà, pensa, la sua paletta e disotterrerà il tesoro e lo conterà di nuovo al lume di una candelina.